Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Non capisco, proprio non capisco. Un uomo come Don Mariano Arena, un galantuomo, tutto casa e parrocchia, e in età, poveretto, con tanti malanni addosso, tante croci, e lo arrestano come un delinquente, mentre, permettetemi di dirlo, tanti delinquenti se la spassano sotto gli occhi nostri, vostri, potrei dire meglio. Ma so quanto voi personalmente tentate di fare e apprezzo moltissimo il vostro lavoro, anche se non tocca a me apprezzarlo nel giusto merito. Grazie, ma facciamo tutti il possibile, eh no? Lasciatemelo dire. Quando di notte si va a bussare ad una casa onorata, sì, onorata, e si tira dal letto un povero cristiano, vecchio e sofferente per giunta, e lo si trascina in carcere come un malfattore, gettando nella costernazione e nell'angoscia una famiglia intera, e no, questa non è cosa, non dico umana, ma lasciatemelo dire, giusta. Ci sono dei sospetti fondati che... dove? E come fondati? Uno perde il senno, vi manda un biglietto col mio nome scritto sopra e voi venite qui nel cuore della notte e così vecchio come sono, senza considerazione per il mio passato di galantuomo, mi trascinate in galera come niente. Veramente, nel passato dell'Arena qualche macchia c'è. Macchia. Amico mio, lasciatemelo dire da siciliano e da uomo quale sono, se per quello che sono merito un po' della vostra fiducia. Qui il famoso Mori ha spremuto lacrime e sangue. È stata una di quelle cose del fascismo che, per carità, è meglio non toccare. E guardate che io del fascismo non sono un detrattore. Certi giornali mi chiamano addirittura fascista. E forse che nel fascismo non c'era del buono. C'era. E come? Questa canea che chiamano libertà. Queste manciate di fango che volano nell'aria a colpire anche le vesti più immacolate, i sentimenti più puri. Via, lasciamo andare. Mori, come vi dicevo, è stato qui un flagello di Dio. Passava e coglieva, come qui si suol dire, duri e maturi, chi c'entrava e chi non c'entrava, birbanti e galantuomini, a fantasia sua e di chi gli faceva le spiate. È stata una sofferenza, amico mio, e per la Sicilia intera. Ora voi venite a parlarmi della macchia. Quale macchia? Se conosceste, come io lo conosco, Don Mariano Arena, voi non parlereste di macchie. Un uomo, lasciatemelo dire, come ce ne sono pochi. Non dico per integrità di fede, che a voi, non voglio considerare se giustamente o meno, può anche non interessare, ma per onestà, per amore del prossimo, per saggezza. Un uomo eccezionale, vi assicuro, tanto più se si pensa che è sprovvisto di istruzione, di cultura. Ma voi sapete quanto più della cultura valga la purezza del cuore. Ora, prendere un uomo simile come un malfattore è cosa che, lasciatemelo dire con la mia sincerità di sempre, mi fa pensare per l'appunto ai tempi di Mori. Dalla voce pubblica, l'Arena è indicato come capo mafia. La voce pubblica. Ma che cos'è la voce pubblica? Una voce nell'aria, una voce dell'aria, e porta la calunnia, la diffamazione, la vendetta vile. E poi, che cos'è la mafia? Una voce, anche la mafia. Che ci sia, ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Voce, voce che vaga e rintrona le teste deboli, lasciatemelo dire. Sapete come diceva Vittorio Emanuele Orlando? Vi cito le sue parole che, lontani come siamo dalle sue concezioni, assumono, dette da noi, più, lasciatemelo dire, più autorità. Diceva: ma la mafia, almeno per certe manifestazioni che ho potuto constatare, esiste. Mi addolorate, figlio mio, mi addolorate. Come siciliano mi addolorate e come uomo ragionevole quale presumo di essere. Quel che indegnamente rappresento, si capisce, non c'entra, ma il siciliano che io sono è l'uomo ragionevole che presumo di essere. Si ribellano a questa ingiustizia verso la Sicilia, a questa offesa alla ragione. Badate che la ragione ha per me naturalmente la R minuscola, sempre. Ditemi voi se è possibile concepire l'esistenza di un'associazione criminale così vasta e organizzata, così segreta, così potente, da dominare non solo mezza Sicilia, ma addirittura gli Stati Uniti d'America, e con un capo che sta qui, in Sicilia, visitato dai giornalisti e poi dai giornali presentato poveretto nelle tinte più fosche. Ma lo conoscete voi? Io sì, un buon uomo, padre di famiglia esemplare, lavoratore infaticabile, e si è arricchito, certo che si è arricchito, ma col lavoro, e ha avuto i suoi guai con Mori, anche lui. Ci sono uomini rispettati, per le loro qualità, per il loro saper fare, per la capacità che hanno di comunicare, di crearsi immediatamente un rapporto di simpatia, di amicizia, e quelli che voi chiamate voce pubblica, il vento della calunnia, subito si leva a dire ecco i capi mafia. E c'è una cosa che non sapete, questi uomini che la voce pubblica vi indica come capi mafia hanno una qualità che io mi augurerei di trovare in ogni uomo e che basterebbe a far salvo ogni uomo davanti a Dio, il senso della giustizia, istintivo, naturale, un dono. E questo senso della giustizia li rende oggetto di rispetto. E questo è il punto. L'amministrazione della giustizia è compito dello Stato e non si può ammettere che, parlo di senso della giustizia, non di amministrazione della giustizia. E poi vi dico, se noi due stiamo a litigare per un pezzo di terra, per un'eredità, per un debito, e viene un terzo a metterci d'accordo, a risolvere la vertenza, in un certo senso viene ad amministrare giustizia. Ma sapete cosa sarebbe accaduto di noi due se avessimo continuato a litigare davanti alla vostra giustizia? Anni sarebbero passati e forse per impazienza, per rabbia, uno di noi due o tutte e due ci saremmo abbandonati alla violenza. Non credo, insomma, che un uomo di pace, un uomo che mette pace, venga ad usurpare l'ufficio di giustizia che lo Stato detiene e che, per carità, è legittimo. Ma, messe le cose su questo piano, e su quale piano volete metterle? Sul piano di quel vostro collega che ha scritto un libro sulla mafia che, lasciatemelo dire, è una tale fantasia che mai me la sarei aspettata da un uomo responsabile? Per me la lettura di quel libro è stata molto istruttiva. Se intendete dire che vi avete appreso cose nuove, va bene, ma che le cose di cui il libro parla esistono davvero è un altro discorso. Ma mettiamo le cose su un altro piano. C'è stato mai un processo da cui sia risultata l'esistenza di un'associazione criminale chiamata mafia, cui attribuire con certezza il mandato e l'esecuzione di un delitto? È mai stato trovato un documento, una testimonianza, una prova qualsiasi che costituisca sicura relazione tra un fatto criminale e la cosiddetta mafia? Mancando questa relazione e ammettendo che la mafia esista, io posso dirvi, è un'associazione di segreto mutuo soccorso, né più né meno che la massoneria. Perché non attribuite certi delitti alla massoneria? Ci sono tante prove che la massoneria svolga azioni delittuose, quante ce ne sono che le svolga la mafia. Io credo, credete a me, lasciatevi ingannare da me, che per quel che indegnamente rappresento, Dio sa se voglio o posso ingannarvi, e vi dico, quando voi, nell'autorità di cui siete investito, indirizzate, come dire, le vostre attenzioni verso persone dalla voce pubblica, indicate come appartenenti alla mafia, e soltanto per il fatto che sono indicate come mafiose, senza concrete prove e dell'esistenza della mafia e dell'appartenenza ad essa delle singole persone, ebbene, voi fate, al cospetto di Dio, ingiusta persecuzione. E siamo proprio al caso di Don Mariano Arena e di questo ufficiale che l'ha arrestato senza pensarci due volte, con una leggerezza, lasciatemelo dire, non degna della tradizione dell'arma. Diremo col latino di Svetonio che ne principum quidem virorum insectatione abstinuit, che tradotto in spiccioli vuol dire che Don Mariano è amato e rispettato da un paese intero, prediletto da me, e vi prego di credere che so scegliere gli uomini alla mia dilezione. È carissimo all'onorevole Livigni e al ministro Mancuso. Le 24 ore del fermo di polizia erano già scadute per il Marchica e per l'Arena e il Pizzuco stavano per scadere. Alle 9 in punto, tempestando il Marchica alla porta della camera di sicurezza per chiedere rispetto dei propri diritti, che conosceva benissimo, il maresciallo lo informò che un provvedimento del procuratore della Repubblica prorogava il fermo alle 48 ore. Così, rassicurato relativamente alla forma, il Marchica ridiventò quieto e non curante relativamente alla sostanza, che era il tavolaccio sul quale di nuovo si sdraiò e persino con una certa voluttà. Il maresciallo tornò in ufficio, rimurginando il fatto che il Marchica avesse chiamato alle 9 spaccate e non aveva orologio, giacendo il suo da polso insieme al portafoglio, alla cravatta e alle stringhe delle scarpe, in un cassetto dell'ufficio. Alle 10 il maresciallo svegliò il Marchica, gli restituì gli effetti. Il Marchica credette stessero per metterlo fuori. Il grumo di sonno, di preoccupazione e di barba che era la sua faccia si sciolse in un sorriso di trionfo. Ma al portone della caserma c'era un'automobile. Il maresciallo ve lo spinse dentro, dove già c'era un carabiniere, e un carabiniere entrò dopo, per cui il Marchica si trovò stretto tra due carabinieri sul sedile posteriore di una 600. Fece appello al codice della strada e il maresciallo, che già si era infilato al lato dell'autista, ne fu così sorpreso da rispondere con evasiva gentilezza: «Siete tutti e tre magri». A C, nelle camere di sicurezza del comando compagnia, si trovavano il Pizzuco e l'Arena. Il capitano aveva pensato che a tenerli per un giorno intero nel bagnomaria delle camere di sicurezza, l'interrogatorio cui doveva sottoporli avrebbe avuto esito migliore. Una notte e un giorno di disagio, di incertezza, avrebbero avuto su questi tre uomini il loro peso. Cominciò dal Marchica. Il comando compagnia aveva sede in un vecchio convento, pianta rettangolare, e su ogni lato due file di camere divise da un corridoio, una fila che aveva finestre intorno al cortile, un'altra le cui finestre guardavano sulle strade. A questa costruzione piuttosto armoniosa, le preoccupazioni di governo del siciliano Francesco Crispi e del suo più travagliato ministero ne avevano aggiunto un'altra, sgraziata, informe, che voleva ripetere in più ridotte proporzioni il disegno della prima. Ma era riuscita come la copia che un bambino può fare del disegno di un ingegnere. Al posto del cortile c'era un pozzo a lume e le due costruzioni comunicavano con un rampare di scale e un aprirsi di anditi da non raccapezzarcisi se non dopo pratica lunga. Aveva però il vantaggio di offrire stanze più grandi di quelle della vecchia costruzione e al primo piano erano destinate ad uffici, al secondo piano ad alloggio del comandante. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia.